Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Possono lusso e low cost andare d'accordo? Lo scopriremo tra poco. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di lusso essenziale, sensibilità al prezzo, ricerca della qualità e sostenibilità. Parliamo poi di social media e marketing partecipativo e, per il focus sui trend, di Eros e consumi. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. Appassiona gli esperti di marketing il caso della maglietta della Luna e i tre lupi, protagonista di un vero e proprio boom di vendite sul web. Una t-shirt normalissima, da anni sul catalogo di Amazon, diventata improvvisamente l'oggetto del desiderio grazie a un sito goliardico che l'ha scoperta e consigliata, facendola indossare con Photoshop a una serie di personaggi famosi, da Obama a Paris Hilton. Torna di gran moda il cappello, nuovo protagonista dell'eleganza femminile. Tra i nomi emergenti, quelli della modista francese Céline Robert, che crea cappellini scultura con materiali inediti come plastiche, resina poliestere, fibre naturali, reti in plastica e metalli. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro il prezzo del latte, crollato del 30% alla stalla, ma non sugli scaffali dei negozi. Gucci spezza una t-shirt a favore dell'ambiente. La maglietta in edizione limitata, cotone organico, tinte naturali e packaging riciclabile, sostiene Home, il film manifesto della causa ecologica globale. Proventi devoluti all'associazione no profit goodplanet.org. Anche la vacanza studio sposa la formula reality. L'idea è della Student Travel School svedese, che propone un corso gratuito di inglese a Malta a 20 ragazzi tra i 16 e i 19 anni, disposti a diventare protagonisti del primo reality studio. Canali dedicati sul sito della scuola e sui vari social network. La borsa della spesa. Oggi nella nostra shopping bag ci sono i prodotti del nuovo lusso che gli esperti chiamano luxury low cost o lusso essenziale, prodotti non necessariamente costosi. Il concetto di lusso è cambiato, lo andiamo ripetendo da tempo. Finita l'era del lusso feticcio, l'eccellenza di un prodotto ora si misura secondo parametri diversi dal prezzo sul cartellino. Quindi addio all'ostentazione, al superfluo e agli status symbol a favore dell'essenzialità e soprattutto della sostenibilità ambientale e sociale. Concediamoci, per così dire, il lusso di non sprecare, non inquinare, non diffondere la cultura dello sviluppo insostenibile. Ce ne parla Cristina Fei. Con la crisi economica anche il lusso cambia faccia. In tempo di risparmi diventa sostenibile ed essenziale, accessibile a tutte le tasche. Finita l'epoca degli eccessi, la ricchezza non è più materiale, ma si identifica con le emozioni e la creatività. Da qui partono i designer, architetti e sociologi europei riuniti al Macro Future, museo di arte contemporanea a Roma. 3 giorni di convegno per riflettere sulle nuove tendenze di un mercato in cui lusso e low cost si incontrano, privilegiando la qualità e l'eccellenza dei prodotti. E in questo scenario arriva una nuova figura di consumatore, Paolo Ferrarini, ricercatore del Future Concept Lab. Ci sono molti gruppi di consumatori avanzati, quelli che noi chiamiamo i consumautori, che mettono in pratica delle nuove esperienze legate al lusso e al low cost. Il lusso oggi va visto sicuramente nella chiave dell'eccellenza. Allora, un prodotto eccellente è un prodotto unico, ma che nello stesso tempo può dare la possibilità di avere delle esperienze ripetute. Non necessariamente è un prodotto caro. E se poi si riesce a riciclare materiali usati per ottenere prodotti di qualità, il gioco è fatto. C'è chi al gusto del riuso ha unito l'esperienza nell'alta moda per creare accessori vintage venduti in tutto il mondo. Ilaria Venturini Fendi, designer, imprenditrice agricola e fondatrice del progetto Carmina Campus. Le mie borse sono pezzi unici. Le ultime borse che ho fatto, ho trovato delle vecchie veneziane, un fondo di magazzino. Sto cercando di abbassare i prezzi in altro modo. Vado dal produttore al consumatore. È bellissimo, io penso, abbinare al lusso i valori per il sociale. E infatti il lusso di oggi è anche etico. La Carmina Campus sta sviluppando in Camerun un centro in cui le donne con problemi di salute e di famiglia possano creare borse e cappelli. Un buon modello di risparmio e di lusso essenziale arriva anche in Francia, con una fiera di 5.000 persone e più di 30 espositori. Brando Crespi, ideatore di 1618 2008 la prima fiera del lusso sostenibile a Parigi. Sony, per esempio, ha fatto vedere una nuova televisione che consuma un terzo dell'energia e in più se uno esce dalla stanza la televisione si spegne. Tesla ha fatto vedere una macchina elettrica che vende a 100.000 euro e che va da 0 a 100 km in 3 secondi, cioè una cosa straordinaria. Un motoscafo che fa 30 nodi ed è tutto solare, per cui assolutamente silenzioso e non inquinante. La prima linea di gioielli etici, per esempio. C'è un discorso che in fondo tocca quelle che in inglese sono chiamate le 3P, Profit, People and Planet. Bisogna prendere in considerazione anche People e Planet. Salvare l'ambiente risparmiando è lo slogan dell'architetto Mario Cucinella, inventore del modello di casa 100K, un'abitazione low cost ed ecologica, a zero emissioni di anidride carbonica e capace di sfruttare l'energia solare. Alberto Bruno dello studio Mario Cucinella. Noi offriamo un alloggio di 100 metri quadri che produce tutta l'energia che viene richiesta dalla casa per vivere. C'è un impianto fotovoltaico che produce tutta questa energia. Da un lato non paghiamo la bolletta e per una casa da 100 metri quadri sono circa 50 euro al mese di risparmio per la famiglia media. Allo stesso tempo la produzione energetica, oltre a offrirci energia gratuita, pulita, riceviamo dallo Stato anche circa intorno ai 150 euro al mese. Tutti possiamo dunque aspirare al lusso del nuovo millennio, una dimensione privata, sensoriale e ricca in cui noi ricreiamo il nostro piccolo paradiso. Ora parliamo di brand, costruzione del marchio e identità di prodotto, temi fondamentali nella comunicazione d'impresa sui quali si sono confrontati al Festival dell'Economia di Trento il sociologo dei consumi Gianpaolo Fabris e il patron della TOTS Diego Della Valle. Cosa cambia in tempo di crisi? Lo abbiamo chiesto al professor Fabris. Anzitutto, anche in tempo di crisi e forse soprattutto, si scopre il potere della marca. Si vede per esempio la crisi grossa di alcuni distretti, dalle ceramiche al Sassuolo al distretto delle sedie di Trento, dove non avendo dei marchi ma avendo soltanto dei prodotti si trovano in una situazione di grande difficoltà, perché oggi fare un buon prodotto è una condizione necessaria per costruire una marca ma assolutamente non sufficiente. Quindi avere dei prodotti buoni, talvolta anche eccellenti, ma che mancano dello statuto della marca è una carenza grave. Vi ricordo che Radio 24 segue il Festival dell'Economia che chiuderà domani con approfondimenti e trasmissioni in diretta da Trento. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Torniamo a parlare di marketing partecipativo. Il consumatore a volte lavora inconsapevolmente, altre volte volontariamente, per le marche che preferisce. Già in altre occasioni ci siamo occupati di questa tendenza, come nel caso delle caffetterie Starbucks. Il ristoratore di Seattle, negli USA, invita i suoi clienti ad entrare nel proprio sito, a cercare un apposito blog e a criticare come vogliono le brioche fatte dalla catena. Una cosa del genere sta facendo in questi giorni anche la marca di gelati e gelatterie Ben & Jerry, di proprietà della multinazionale anglo-olandese Unilever. Ha lanciato un concorso mondiale attraverso gruppi di ascolto organizzati su Facebook e Twitter per capire i gusti e i profumi del suo gelato da parte dei suoi acquirenti. I paesi coinvolti sono addirittura 16 e i finalisti di ciascuna nazione saranno invitati a Santo Domingo per confrontarsi per la ricetta finale. Un'operazione simile a quella di Ben & Jerry è stata effettuata anche da Danette, il dessert di Danone, che nel 2008 ha coinvolto addirittura 2 milioni di consumatori della marca. La stessa operazione viene ripetuta anche quest'anno. È proprio il caso di dire allora che il consumatore è diventato anch'esso una sorta di produttore e partecipa gratuitamente a far diventare grande e aderente ai nuovi gusti di consumo una marca che appare in linea con le nuove dimensioni sociali dell'acquisto, passando questa volta via internet, cioè dalla democrazia online, oggi forse l'esperienza più credibile che c'è. Di nuovo nuovo in studio con Essere e Avere. Mandate a letto i bambini, si dice in questo caso in televisione. Noi abbiamo usato la musica del burlesque, lo striptease anni 50 tornato di gran moda, per segnalare l'argomento piccante di questa puntata. Oggi parliamo di Eros e trasgressione nei consumi. Lo facciamo come sempre con Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. È una vera e propria ondata sexy quella che travolge ormai moda, design, cinema e pubblicità. Una tendenza hot che ha sdoganato, per così dire, le luci rosse in tutti i settori. Dai mobili, che si rifanno al cosiddetto sensual interior, fino ai sex toys in vendita nei negozi chic e nei grandi magazzini. L'erotismo, insomma, ormai è diventato glam, grazie al suo essere molto più soft che hard. Patrizia. Sì, il mondo della trasgressione legata al sesso è molto variegato, va dal soft all'hard, dall'ironico al culturale, ma al di là delle distinzioni che si possono fare, il fatto è che è un po' ovunque l'erotismo, l'eros, il porno soft. Naturalmente soprattutto in internet, ma sta dilagando anche nel mondo dei consumi. Citiamo subito il fenomeno youporn.com, lo YouTube del porno, tra i 50 siti più visitati al mondo, è il sito per la condivisione libera, quindi non a pagamento, di materiale pornografico, di film amatoriali, di contenuti soft appunto e hard messi in rete dagli utenti. Quindi dentro la rete e fuori, l'eros e il porno nelle sue sfaccettature sono molto disponibili oggi, e soprattutto con nuove estetiche e nuovi codici che sono anche più popolari, più domestici, anche più democratici, diciamo, anche se convivono accanto alle classiche atmosfere più patinate, sofisticate, super chic, e anche accanto alle versioni quelle più kitsch o più camp. Insomma, il tema è un po' dare fondo all'immaginazione e alle fantasie erotiche nel quotidiano, sperimentare posizioni attraenti e giochi frivoli, che, messo tra virgolette, è esattamente quello che predica in questo momento Xawery Notz, padre francescano polacco che, con la benedizione della Chiesa di Varsavia, ha pubblicato il Kama Sutra cattolico, futuro bestseller a detta di tutti, che molti editori europei si stanno contendendo per la traduzione. Passando al fronte mediale di consumi culturali, da segnalare il fenomeno della paladina letteraria della sessualità femminile estrema e coraggiosa, questa trentenne tedesca Charlotte Roche, che spopola nelle librerie con il romanzo Zone umide. Poi, molto interessante la televisione, che sta spostando i limiti del rappresentabile con molte serie TV tipo Dexter, Weeds, e anche sul tema eros, sesso e porno soft ha alzato l'asticella con Californication, questa serie prodotta da Showtime che racconta le avventure molto trasgressive di uno scrittore un po' depresso ma molto carismatico, in crisi creativa, assiduo bevitore, amante del sesso compulsivo, che in ogni puntata viene descritto con dovizia di dettagli visivi e narrativi. Una nuova concezione di casa di appuntamenti culturali a New York, Zipper Factory, il bordello della poesia. Non si acquistano infatti corpi e prestazioni, ma reading di poesie declamati da poetesse vestite come prostitute di bordelli d'annata con guepier e boa di struzzo. Questa ondata di eros domestico, per così dire, ha messo in crisi i modelli tradizionali, tanto che vacilla uno dei colossi del porno, Playboy. Playboy è in vendita, non rende più. Nei primi tre mesi del 2009, l'impero fondato oltre mezzo secolo fa da Hugh Hefner ha perso 10 milioni di euro, il triplo rispetto allo scorso anno. Un quarto del personale è già stato licenziato. A mettere in crisi le vendite della rivista, magazine maschile numero uno negli States, la pornografia che circola liberamente sul web. Secondo le indiscrezioni, l'editore 83enne sarebbe disposto a dire addio al suo impero per una cifra vicina ai 300 milioni di dollari, e fra i potenziali acquirenti spiccherebbe il nome di Sir Richard Branson, patron della Virgin. Patrizia, piccante ma non trash, è una tendenza che respinge la volgarità, diciamolo, gioca più sull'ironia, è così? Sì, nel suo diventare più quotidiano, come abbiamo detto, un po' alla portata di tutti, diciamo, nel suo essere un po' pop, in molti casi l'eros e il porno sono interpretati in chiave ironica. Faccio qualche esempio: per aggiungere l'aggettivo sexy a quelli un po' triti e ormai svuotati che si usano per parlare di bicicletta, del mondo della bicicletta, quindi sostenibile, salubre, ecologico, green, eccetera, il progetto newyorkese Paul Riders sta promuovendo il pedal power, il potere del pedale, attraverso il divertimento piccante, come dicono. Quindi si vedono circolare biciclette con un carrello palco al traino che sostiene un palo da lap dance, intorno al quale si esibisce una ballerina professionista con tacchi a spillo, gonna inguinale, musica languida, eccetera. Torniamo a parlare del burlesque, perché si inquadra in questa tendenza non solo il revival di questo genere di spettacolo in sé, ma anche la sua declinazione in chiave fitness, per così dire. Bene sì, lo strip ora si insegna in palestra. Succede a Milano, palestra Downtown, dove è boom per i corsi di burlesque, appunto. Per saperne di più abbiamo in collegamento Felix Barone, coreografo, responsabile corsi Downtown. Buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Come vi è venuta l'idea della burlesque dance? Ma è venuta a me l'idea di proporre questa classe verso le donne, perché osservando un pochino quelli che erano le tendenze e i fenomeni di costume ho avuto questa intuizione, ho pensato che potesse essere comunque di interesse. Ecco, chi si è iscritto? Ci fai un po' il profilo di chi appunto ha voluto sperimentare il corso? Allora, devo dire che il target è abbastanza trasversale, nel senso che sia a livello di età che a livello di estrazione sociale, diciamo dai 30 ai 50, professioniste o anche le mamme, un po' ogni tipo di donna. È una cosa che un po' accomuna, no? La voglia di essere più sicure di sé, di avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo o comunque di essere più seduttive, sempre comunque in maniera giocosa. Come si svolge la lezione? Come una tipica lezione di danza, per cui ha un suo riscaldamento, ma già da subito comunque si comincia con delle camminate che aiutano ad entrare un pochino nello spirito e nel mood. Ovviamente tutto è assolutamente supportato dalla musica, che è un po' la chiave anche, no? La musica insieme all'abbigliamento sono gli elementi determinanti per riuscire a catturare quella che è poi l'essenza del burlesque. Lezione in tacchi a spillo, non in scarpe da ginnastica. Certo. Esatto, il requisito, sono due i requisiti, diciamo, gli elementi importanti: il tacco alto e il boa. Il boa è importante perché comunque aiuta anche nella gestualità, e il tacco dà una sensazione differente che essere comunque in scarpe da ginnastica. Grazie a Felix Barone per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Utrecht, Olanda, su trasgressione, consumi e dintorni? Ce lo racconta come sempre una delle nostre Urban Watcher, Elena Marinoni di Memi, bentornata. Buongiorno, un saluto a tutti. Oggi parliamo di Sander Reigers, un artista olandese di 31 anni che ha applicato in un modo decisamente poco convenzionale i principi della sostenibilità, della riconversione funzionale degli oggetti in disuso e del riutilizzo di materiali altrimenti destinati a scarto. Reigers dona nuova vita e nuova dignità alle bambole gonfiabili, utilizzandone come materia prima per Mama Sand, la linea di abbigliamento e accessori di streetwear da lui concepita e realizzata appunto a partire da pezzi di bambole gonfiabili. Del resto di plastica si tratta, plastica che opportunamente ricomposta attraverso un'operazione di patchwork diventa un tessuto. Tutto nasce da una suggestione, no? E diventa una immaginifica contaminazione tra arte e fashion in chiave appunto porno pop. Reigers rimase come folgorato dalla lettura di un romanzo erotico, quello di Marguerite Duras, The Malady of Death. Da qui ha cominciato a guardare al mondo delle bambole con occhi un po' diversi. Gli sono apparse talmente brutte e inerti che rigenerarle, risignificarle, trasformarle in qualcosa di bello gli è sembrata una sfida degna di essere raccolta. Grazie Elena. Patrizia, quali gli sviluppi futuri ipotizzabili per questa tendenza? Questa è la conclusione che ti chiedo sempre di fare, però con una sottolineatura: c'è spazio ovviamente ovviamente per un'analisi critica di tutto questo. Beh, certamente, diciamo che con l'irruzione dell'estetica porno comunque nelle nostre vite, nel quotidiano, nei consumi, è come se qualsiasi luogo potesse e stesse diventando la scena possibile per performance o oggetti, diciamo, anche se a mezze luci rosse. Quindi questa disponibilità così massiccia del porno e dell'eros, che passa dalle immagini all'esperienza ai prodotti, ci sta trasformando, nostro malgrado, vorrei sottolineare, in veri voyeur. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.